Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo anche dal Giappone, perché il Giappone è un caso, vedete cosa c'entra il Giappone? Beh, è un caso di scuola, visto che molto si dibatte in Europa, nell'area euro, su cosa fare, quali ricette adottare, l'austerità fine a se stessa che sembra segnare per essere buoni il passo, in realtà ha portato da un punto di vista oggettivo l'area euro a essere l'unica area economica del mondo, perlomeno dei paesi OCSE, a conoscere una seconda recessione. Perché dico Giappone? Perché Giappone invece, che viene sì da 10 e passa anni di stagnazione a tassi zero, ha adottato una politica iperespansiva con il nuovo governo, seguito dalla Banca Centrale Giapponese. E oggi la notizia più importante, almeno questa mattina, riguardava proprio l'indice Nikkei, non solo perché è salito del 3%, ma perché ha superato per la prima volta dal giugno del 2008 i 14.000 punti e, secondo la banca d'affari Goldman Sachs, arriverà addirittura a 16.000 punti nell'arco di un anno. Vorremmo allora capire che cos'è questo modello giapponese e soprattutto se è riproducibile da questo punto di vista anche a casa nostra. Nel giorno in cui le borse vanno particolarmente bene a Milano soprattutto, lo spread è calato a 257 punti base, quello spagnolo è a 280, ne beneficiano soprattutto, come sempre avviene in questi casi, le banche. Il Banco Popolare guadagna l'8,20%, l'Ubibank guadagna il 7,40%, Monte dei Paschi più 5,50%, Popolare Emilia Romagna più 4,70%, Mediolanum più 4,1%, Unicredit più 3,40% e Mediobanca più 2,40%, la Pop Milano guadagna 2 punti percentuali, bene anche Ansaldo STS più 2,31%. Chi perde oggi? A2A, meno 3,45%, Autogrill molto forte ieri, meno 1,90%, Fondiaria Sai meno 1,90 anch'essa e Pirelli perde lo 0,80%. Gli altri indici: Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,50%, l'America guadagna lo 0,33%. Questo è uno dei temi. L'altro tema riguarderà invece le politiche di casa nostra, dopo le dichiarazioni questa mattina del presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto che è più importante tagliare le tasse sul lavoro che tagliare l'IMU. Tra l'altro la Confindustria ha avanzato una proposta da cui emergerebbe che, con un insieme appunto di tagli soprattutto dell'IRAP sui lavoratori, si arriverebbe a un risparmio di 9 punti percentuali, il famoso cuneo fiscale in busta paga. Ottimista comunque il presidente di Confindustria Squinzi su Letta e sulla sua attività, a patto che vi sia il consenso politico delle parti che hanno formato il governo. E poi una frase: la decrescita felice non può esistere. Devo dire su questo, non perché sia presidente di Confindustria, ma perché lo abbiamo detto anche in tempi non sospetti, abbiamo avuto ospiti anche alcuni teorici della decrescita, Latouche, ma non solo. Insomma, la decrescita, io non ho mai capito una cosa, lo dico per inciso, sulla decrescita felice. Ammettiamo anche che si arrivi in un periodo di tempo a produrre meno, a lavorare meno, a guadagnare meno, e che questo porti a una situazione di riequilibrio. Ammesso e non concesso questo, negli anni che ci vogliono per arrivare a questa situazione, cosa facciamo? Come gestiamo 1 milione di disoccupati? Come gestiamo la chiusura delle imprese? Come gestiamo potere d'acquisto in crollo? Io non ho mai capito questo. Cioè, anche ammettendo che si possa arrivare a quella di crescita felice, io di decrescita felice ne ho visti poche al mondo, però ammettendo anche che si possa produrre meno, che il PIL non sia più importante, come fai a transitare un'economia basata sul PIL, sul potere d'acquisto, sull'occupazione, in una nuova fase? Nel frattempo cosa metti? In piazza i militari? schieri la polizia? No, chiedo perché già rischiamo tensioni sociali fortissime in Europa per la disoccupazione normale, tra virgolette, da stagnazione e recessione. Non oso immaginare cosa capiterebbe con questa ipotesi di decrescita. Bisogna poi spiegarlo a chi non ha un lavoro o chi lavora meno e non ha meno e ha meno potere d'acquisto, che deve essere felice perché ha più tempo libero. C'è gente che nel tempo libero diciamo, fa gesti anche violenti se il tempo libero è obbligato. Mi fate notare che non ho detto l'indice di Milano, più 1,40%, avete ragione. Per quello che riguarda altri temi, dicevamo la proposta di Confindustria, tagliare le tasse sul lavoro più che tagliare l'IMU, e poi anche il dibattito si sta realizzando in Parlamento, ma soprattutto nel governo. Tra l'altro il capogruppo del PDL alla Camera, Renato Brunetta, ha detto, riferito a Squinzi, non c'è contrapposizione con la detassazione sul lavoro. Teoricamente è vero, uno può ridurre l'IMU e ridurre anche le tasse sul lavoro, però occorre capire dove verrebbero trovate queste risorse. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Dall'Europa, dove il prossimo giugno, stando a quello che ha riferito il Presidente della Commissione Europea José Barroso, la Commissione Europea presenterà una proposta per il meccanismo di fallimento ordinato delle banche. E per il Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble serve invece un'accelerazione sul fronte dell'unione bancaria. Porteremo velocemente avanti l'unione bancaria, ha detto Berlino, durante il giubileo del Consiglio Economico Finanziario Franco-Tedesco, a cui partecipa anche il collega di Schäuble, il francese Pierre Moscovici. È tornato a parlare il mitico presidente dell'Eurogruppo, Heroen Dijsselbloem, comunque si pronunci, quello che disse: il modello Cipro è un modello adottabile anche per altre banche nell'area euro. Poi fu bacchettato da tutti, a partire da Draghi e dalla Commissione Europea. Ha detto oggi, sembra una frase un po' più equilibrata: il meccanismo di fallimento ordinato, appunto la proposta che arriverà a giugno e che presenterà la Commissione Europea a giugno per il fallimento ordinato delle banche, è una priorità dell'area euro perché è il complemento necessario alla supervisione unica bancaria, ed è giusto che a pagare quando un istituto fallisce sia chi ha approfittato dei benefici. Allora, ascoltiamo questo passaggio. Io non ho ben capito che cosa vuol dire che paghi chi ha approfittato dei benefici. Gli azionisti che partecipano al capitale di rischio, gli obbligazionisti, immagino di no, perché hanno prestato i soldi, quindi parliamo degli azionisti, parliamo dei correntisti, ma che beneficio ha un correntista del modo in cui viene gestita una banca? Io così, per come la capisco, capisco solo gli azionisti di una banca. Comunque, sentiamo il passaggio di Dijsselbloem. There is still a long way to go. C'è ancora molta strada da fare. L'Unione Europea non deve indietreggiare nell'impegno per raggiungere solidi conti pubblici. Il risanamento fiscale può avere un impatto negativo nel breve termine sulla crescita, ma è una condizione fondamentale per la prosperità dell'Unione Europea a medio e lungo termine. Ecco perché dobbiamo completare l'Unione bancaria con l'obiettivo di rafforzare la supervisione bancaria. Dobbiamo anche garantire che quando una banca è nei guai, l'allarme suoni in tempo e che si agisca immediatamente per evitare il peggio. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su come agire nel caso di fallimento di una banca. Per affrontare questo evento nel modo migliore, dobbiamo far sì che a pagare, quando un istituto fallisce, sia chi ha approfittato dei benefici. Inoltre, i depositi fino a 100.000 euro devono essere salvaguardati e deve essere evitato al massimo l'uso di denaro pubblico. Garantendo che il settore privato si assuma la responsabilità maggiore, la disciplina del mercato aumenterebbe e il sistema finanziario sarebbe sostenibile e sano. Il meccanismo di fallimento ordinato delle banche è una priorità dell'Eurozona, complemento necessario alla supervisione unica. L'agenda dell'Eurogruppo è chiara: rafforzare il nostro sistema finanziario e continuare con le riforme strutturali necessarie per la competitività e la crescita in tutti gli Stati membri. Interessante perché Dijsselbloem è olandese, no? Ed era quell'Olanda, era assieme alla Germania e la Finlandia il trio, diciamo, del rigore, la Germania in testa. La dico interessante perché bisogna sempre stare attenti nella vita a fare i maestrini, perché adesso l'Olanda vuole un anno in più per tagliare il suo deficit, come hanno chiesto la Spagna e anche la Francia, come a mio avviso dovrebbe chiedere l'Italia, però l'Italia ha un percorso diverso, deve prima vedere finita la procedura di infrazione e poi potrà, diciamo, andare in Europa magari dopo settembre a chiedere, settembre è il mese delle elezioni in Germania, a chiedere diciamo dei parametri un po' più flessibili sul calcolo del deficit, per esempio su forme anche per incentivare l'occupazione. Però dico, è interessante come l'Olanda fino all'altro ieri molto rigorosa, molto pro austerity, adesso abbia chiesto e l'ho detto lo stesso presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem un anno in più per tagliare il proprio deficit. E mo come la mettiamo? Intanto in Francia la produzione industriale cala più del previsto, meno 0,9% a marzo contro uno 0,3% previsto dagli economisti, e come ricordavano anche i nostri GR, invece ormai è un fenomeno, diciamo, strutturale quello che è il flusso migratorio verso la Germania. Era dal 1995 che non si vedeva un tale flusso di immigranti di altri paesi europei, Spagna, Portogallo, Grecia, ma anche l'Italia. Pensate che 1 milione di persone hanno scelto la Germania nell'ultimo anno come posto di lavoro. In Spagna vuol dire il 45% in più rispetto all'anno prima, in Grecia e Portogallo il 43% in più, ma anche gli italiani il 40% in più di immigrati in Germania rispetto all'anno prima. Ancora, il ministro tedesco delle finanze Schäuble a Berlino, sempre in occasione del vertice franco-tedesco, dice: non credo che l'euro fallirà, ormai è stata recuperata la fiducia. Ma il commissario economico agli affari economico monetari Olli Rehn ha detto: vabbè, bisogna combattere con tutti i mezzi la disoccupazione perché così è insostenibile. Qualunque passo però verso la solidarietà e la mutualizzazione dei rischi richiedono sforzo maggiore di rigore sui bilanci. Dopo un periodo prolungato di recessione, ci atteniamo che l'economia europea si stabilizzi nel corso di quest'anno con la crescita che si rafforzerà nel 2014. Sfortunatamente la disoccupazione è prevista ancora a un livello insostenibile. Ci aspettiamo un cambio di rotta solo all'inizio del prossimo anno, quando la crescita prenderà un certo ritmo. Sottolineo che dobbiamo fare tutto il possibile per superare la crisi dell'occupazione in Europa. Le politiche europee sono focalizzate nel perseguire una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. La politica monetaria accomodante rimarrà tale, come abbiamo sentito la scorsa settimana dalla Banca Centrale Europea. Il principio guida della Commissione prevede che qualunque passo verso la solidarietà e mutualizzazione dei rischi economici debba essere combinato con una maggiore responsabilità e con uno sforzo ulteriore di rigore sui bilanci. A ciò si arriva con una condizione di sovranità e una più profonda integrazione nel processo decisionale. Però il ministro francese all'economia e alla finanza Moscovici ha assicurato che la Francia non trascurerà l'abbattimento del deficit, ha respinto i timori sull'allentamento degli sforzi di Parigi sul risanamento dei conti, ma ha detto: attenzione, L'Europa è di fronte a un cambio di rotta che garantirà più crescita. Vedremo se questo cambio di rotta arriverà. Ancora un paio di notizie dall'Italia. Salvatore Rossi è il nuovo direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione dell'attuale ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. E per quello che riguarda invece il ministro Saccomanni, oggi durante la discussione del documento economico-finanziario al Senato ha detto che potrà essere aggiornato in meglio con la riduzione dei tassi e ha chiesto al che chiede al governo, sostanzialmente la maggioranza al Senato, di individuare gli interventi prioritari necessari per attuare le linee programmatiche pur nel rispetto degli impegni europei su deficit e debito. Stop all'austerità che va associata con una politica volta a creare occupazione. È diventato comunque ordine del giorno l'emendamento di Calderoli per la sospensione della rata dell'IMU di giugno e il rimborso di quella versata nel 2012. Però la Commissione Europea già ieri ha fatto sapere che si aspetta entro metà mese che il governo presenti il programma di stabilità aggiornato e indichi anche dove troverà i soldi che non entreranno in cassa dall'IMU o che dovrà restituire se vuole restituire anche l'IMU del 2012. Una notizia dalla Fiat invece, uno sui consumi. Gli stabilimenti italiani saranno centrali nella strategia del gruppo Fiat Chrysler per l'Europa, l'ho detto Alfredo Altavilla, responsabile Europa di Fiat Chrysler. Mentre per quello che riguarda gli investimenti Fiat, Sergio Marchionne ha annunciato 7 miliardi e mezzo di investimenti in Brasile, sia Fiat Spa che Fiat Industrial, quindi anche la parte camion e trattori. 7 miliardi e mezzo di dollari nel periodo 2013-2016 creerà 7.700 posti di lavoro nel nuovo stabilimento di Goiana, più altri 12.000 con l'indotto. I consumi non accennano invece a calare in questo paese. A marzo abbiamo toccato il livello più basso nei consumi dal 2000, questo è l'indicatore della Confcommercio, meno 3,4% rispetto a marzo del 2012, e l'elettricità su base annua ad aprile in questo caso, però l'elettricità è un dato importante non tanto per i consumi dei privati quanto per l'andamento del ciclo economico, perché meno bolletta elettrica c'è, meno le imprese stanno lavorando. Ha fatto un altro meno 1,8% che è depurato dagli effetti di calendario, vuol dire un meno 3% rispetto all'aprile del 2012 di consumi elettrici. Adesso arriviamo anche agli sprechi della nostra pubblica amministrazione. Tra l'altro devo dire una cosa, qualcuno mi sta criticando sulla decrescita felice, va bene, perché uno può pensare come vuole. Io ho solo detto che non ho capito come fa a essere una decrescita felice se uno rinuncia a lavorare e al potere d'acquisto. A meno che non mi diciate che la decrescita felice la realizziamo in tutto il globo, per cui andiamo a spiegare ai cinesi che devono iniziare anche loro a crescere meno, agli indiani che devono crescere meno, ai brasiliani che devono crescere meno, decrescere addirittura, agli indonesiani, ai sudafricani, all'Africa che sta emergendo, alla Turchia, e gli spieghiamo che quello che abbiamo avuto noi in questi decenni loro non lo possono avere, e gli imponiamo una decrescita felice, perché se no la teoria della decrescita felice applicata solo a un continente nemmeno così importante come l'Europa significa banalmente l'impoverimento degli europei a vantaggio dell'arricchimento di altri paesi. Io in altro modo non la vedo. Quindi se vogliamo diventare come europei i camerieri dei miliardari cinesi, indiani e indonesiani che verranno in vacanza qui, in villeggiatura qui e niente di più, va bene. Prego, iniziamo con la decrescita felice. Poi bisogna vedere se è felice. Io, decrescita già ci siamo, questa è una decrescita forzata, continuiamo a perdere punti di PIL. Io tutta sta felicità sulla recessione di questi due anni in giro non la vedo, ma evidentemente abito nel posto sbagliato. Vai con gli sprechi, vai con gli sprechi. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, invasori legalizzati. Neanche più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Neanche più. Allora, vediamo se riesco a tenere assieme due cose. Da un lato la Casa della Carità, la fondazione voluta dal cardinale Carlo Maria Martini per aiutare gli ultimi e che dal 2001 mantiene migliaia di persone ogni anno a Milano, rischia di fallire. La denuncia del presidente Don Virginio Colmegna, che ha detto la diocesi e il comune ci danno una mano, perché noi ci reggiamo in questo momento solo su donazioni e contributi, e la richiesta alla Curia da parte dell'associazione di un contributo di almeno 400.000 euro, perché fino a nel primo anno di vita la diocesi e il comune avevano sostenuto il lavoro con 1 milione di euro. Anche perché Don Colmegna dice: noi chiediamo di essere sostenuti come altri, noi vogliamo 8 euro per ogni ospite fisso che togliamo dalle strade di Milano. Ecco come si arriva a 400.000 euro l'anno. In assenza di quelli, il bilancio sarà in rosso di 600.000 euro. Tra l'altro, nel bilancio 2013 previsionale già avevano inserito nel bilancio i 400.000 euro dalla Curia, senza i quali appunto la Casa della Carità è a rischio chiusura. Non solo, accanto a questo, a Parma, ci spostiamo a Parma, i vigili del fuoco sono messi così male che le due autoscale in dotazione al comando dei vigili del fuoco di Parma sono fuori servizio a causa di guasti, e quindi se serve un'autoscala deve arrivare da Reggio Emilia, da Piacenza. È successo pochi giorni fa, a inizio mese, a Parma, per evacuare gli abitanti di un palazzo, è dovuta arrivare l'autoscala del comando di Reggio Emilia, fortunatamente disponibile. Io non so se si possa andare avanti così. Pensate che le due autoscale dei vigili del fuoco di Parma sono una del 1974, l'altra del 1996, e sono ferme grazie agli effetti dei tagli lineari che i precedenti governi hanno applicato anche ai vigili del fuoco. Perché bisogna risparmiare, vero? Vero? Con i tagli lineari, facendo morti e feriti dappertutto, non guardando ai comuni virtuosi, non dando la possibilità di spendere. Va bene. Allora mi devono spiegare i politici. C'è qualcuno che dice: adesso lei non attacca più il governo Letta mentre attaccava prima il governo Monti e Berlusconi. Ma lo fate, vediamo i primi provvedimenti e poi li giudicheremo. Cosa attacco che si è appena insediato? Ma detto ciò, se non ci sono più soldi, io vorrei sapere come mai in Piemonte sono stati spesi 1.600.000 euro per spese di rappresentanza del Consiglio regionale. Stanno sfilando tutti i 52 consiglieri regionali indagati nell'inchiesta della Procura sui rimborsi facili in regione, e hanno la possibilità giustamente di consegnare una memoria difensiva. Allora, sentite la nota, la memoria difensiva di Marco Botta, consigliere di Fratelli d'Italia, che è stato sentito dopo Mario Carossa della Lega Nord e prima di Aldo Reschigna del PD. A Botta vengono contestate spese per 54.000 euro, di cui 1.550 scontrini di rimborsi relativi anche a parrucchieri, docce solari, che vuol dire la lampada, vestiti comprati nell'outlet di Casale, attrezzature da golf per 150 euro, bollette telefoniche personali. E poi, perché è un mito Botta, decine di scontrini battuti dallo stesso bar di Casale a pochi minuti uno dall'altro. Il sospetto è che uno abbia fatto incetta di scontrini o ha avuto un attacco, diciamo, di bulimia da bar, oppure ha fatto un'operazione che lo qualifica da solo, non lo so, dubbio. In tutto i rimborsi valgono 1.600.000 euro. Allora, lo so benissimo che quello è il budget e il bilancio della Regione Piemonte e l'altra la Lombardia e poi il Comune di Parma, ma visto che poi i conti sono unici, quelli dello Stato, il patto di stabilità è unico, con 1.600.000 euro non riuscivamo, lo so, sono populista oggi, a dare i soldi alla Casa della Carità di Milano, lo Stato, e a comprare due cavolo di autoscale per i vigili del fuoco di Parma, così non girano con quella del 1974, che non è nemmeno più funzionante perché mancano i soldi per ripararla, eppure quella del 1996 non deve essere uno splendore di autoscala, così a naso, chiedo. Pensate quanto naif invece sono i consiglieri neoeletti nella regione Lombardia, perché sono rimasti sorpresi. Jacopo Scandella in quota PD, un altro è Dario Violi, Movimento 5 Stelle, dalla busta paga che hanno appena ricevuto. Perché, ha detto Scandella, mi è venuto un colpo, 16.000 euro netti. perché sono 8.500 euro lordi in indennità più 5.800 fra diaria, forfè di missione e affini, senza considerare rimborsi di viaggio e di rappresentanza. Gli hanno spiegato che riguardava un mese e mezzo di attività e perché non sono incluse alcune addizionali. Però mi dice: sinceramente mi sono vergognato. Violi ha detto che darà una parte dello stipendio con l'intenzione di restituirlo. Tra due mesi però vi sarà una piccola sforbiciata, devono tutti stare sotto gli 11.000 euro lordi, tutto incluso. È la norma varata dal governo Monti che, se non viene adottata, prevede di tagliare dell'80% i trasferimenti statali. Vedo che ancora molti scrivono sulla decrescita felice. Adesso non possiamo fare la puntata su questo. Diciamo una cosa: intanto, uno, se vuole crescere meno, avere più tempo libero, beh, questo deve essere frutto di una scelta individuale. Cosa facciamo? Imponiamo sul modello sovietico comunista la decrescita a tutti? Altra cosa è parlare del sacrosanto di redistribuzione dei redditi, di ridurre le sperequazioni che sono aumentate, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, la fine della classe media. Questo è un ragionamento, ma la decrescita felice io non ho ancora capito che cosa voglia dire. E poi la facciamo solo noi. Giustamente scrive un ascoltatore: beh, io farei volentieri il cameriere dei cinesi a 2000 euro al mese invece che fare il tecnico a 1200. Siamo d'accordo, a parte che deve essere una scelta, ma questo vuol dire lavorare, non decrescere. Fare il cameriere mica lavora 2000 euro al mese, e anch'io sono d'accordo con questo ragionamento, perché punti sul turismo, intercetti i ricchi cinesi, brasiliani, turchi e lavori su questo. Ma quello si chiama cambiare il modello produttivo di un paese, e di questo ragioniamo e bisogna ragionare. Ma la decrescita tout court non possiamo continuare a produrre all'infinito. Lo devi spiegare ai lavoratori che restano a casa, lo devi spiegare ai cinesi e agli indiani che invece vogliono arrivare a tassi di benessere simili a quelli nostri. Cosa facciamo? Dichiariamo guerra alla Cina? Mandiamo la Tuscia a combattere? Non so. Ecco, chiaramente c'è chi dice: lei dà ragione a Squinzi perché è presidente di Confindustria. No, guardi, se si ascolta alcune puntate di 4 anni fa, Squinzi manco era in Confindustria, già abbiamo litigato in diretta con la Tuscia e con altri suoi teorici, perché questi teorici fanno... nessuno mi sa spiegare che come vivi nel frattempo, perché io ho sempre visto che quando la disoccupazione sale a certi livelli o arriva Hitler o arriva Pinochet o arriva la CIA, cioè arrivano sempre situazioni estreme, giusto? Allora, ragioniamo sulla storia e non sui deliri onanistici di teorici da salotto, grazie. E alla decrescita felice i giapponesi, per esempio, non stanno pensando, perché dopo aver beccato un periodo di 12 anni di non crescita, lì potremmo chiedere ai giapponesi come si stava a non crescere, e con tassi a zero l'economia ferma, adesso sono ripartiti con una linea molto molto aggressiva di politica monetaria. Cioè la banca del Giappone già a inizio aprile ha varato un'azione in cui va sostanzialmente a stampare yen, acquista i titoli di Stato del governo e quindi stampa moneta, vuole alzare l'inflazione perché l'inflazione era ferma al 2% nell'arco di 2 anni. E poi il governatore della banca centrale Kuroda ha annunciato appunto 132 miliardi di yen, 1.400 miliardi di dollari di liquidità nel sistema per 22 anni, alla faccia dell'austerity. Ha detto che non avrà nessuna esitazione per fare altre misure. E cosa è successo dopo tutti questi interventi? Vediamo un po' che è successo, che le stime sulla crescita economica giapponese sono state aumentate al rialzo, più 2,9 nel 2013, quando l'Italia farà meno 1,3 e la Germania più 0,8, cioè il migliore dei paesi fa più 0,8 nel 2013, e più 1,4 nel 2014. La stima sul 2014 è addirittura raddoppiata rispetto a quella iniziale. Incredibile poi, lo scorso 30 aprile la disoccupazione in Giappone è scesa ai minimi dal 2008 al 4,1%. E anche qui di decrescita felice non se ne vede l'ombra. Vorrebbero una crescita felice, una crescita equilibrata, una crescita che va a redistribuire. Professor Carlo Filippini, che insegna economia e politica alla Bocconi, già direttore del Centro di Studi Economico e Sociali per l'Asia Orientale, buonasera. Buonasera a voi. Senta, lei, giusto per sapere prima di iniziare, lei è per la decrescita felice? C'è qualche... diciamo così, per una scelta, come si affermava nella trasmissione, di crescere o decrescere, anche se non dobbiamo essere pessimisti. Negli ultimi, che so, 50 anni, l'orario di lavoro di tutti noi in Italia, ma direi in gran parte del mondo, è diminuito in un modo sostanziale, pur producendo di più. Ah beh, è aumentata la produttività. Esatto, appunto. Non in Italia, no, ma si può lavorare di meno, io posso anche capire lavorare di meno e lavorare tutti, era un vecchio slogan, ma qui stiamo ragionando di decrescita, cioè di produrre meno, guadagnare meno, lavorare meno. Io voglio capire chi tiene la popolazione e l'opinione pubblica in questi casi. Comunque, ma in effetti questi sogni di solito sono fatti da persone benestanti. Bravo, bravo, mi ha rubato le parole di bocca, gauche caviar, la sinistra al caviare. No, è facile parlare di decrescita felice quando c'hai il tetto sotto casa, non devi pagare l'asilo, la retta per i figli, tua moglie non ha problemi a mettere insieme il pasto con la cena. No, questo è tutto, vabbè, lasciamo stare, perché la decrescita felice, io andrei alla Touche, ogni anno guadagni il 10% in meno, stai il 10% in più a casa, vediamo cosa succede. Secondo me vai a finire che la stermini tua moglie a stare tutto quel tempo a casa. Comunque, mi dica qual è invece la ricetta giapponese che di decrescita non vuole sentirne parlare, pur avendo avuto 12 anni di non crescita, per cui qualcosa ne sanno. Certo, il cosiddetto decennio perduto in realtà è iniziato già nel gennaio 1990, quindi è una fase di stop and go, ma con sostanziale elettrocardiogramma piatto, encefalogramma piatto, no, dell'economia giapponese. I giapponesi, con il cambio di governo dopo le elezioni del dicembre dello scorso anno, si sono lanciati appunto in una politica economica molto aggressiva, che oltre alla parte monetaria di cui già si parlava, ha una componente di politica fiscale, massicci investimenti pubblici soprattutto, ma non solo, e una terza parte un pochettino più vaga, un po' più fumosa, di riforme strutturali che dovrebbero avere effetto, no, nel medio periodo. La notizia di oggi è appunto il balzo del Nikkei, cioè della borsa di Tokyo, sì. E questo è dovuto a tutta una serie di fattori, in parte dati reali, fatti reali, e in parte questo clima appunto di ottimismo, non direi assolutamente euforia, ma insomma certamente di ottimismo, che la Abenomics, la politica economica del nuovo governo guidato da Abe, ha appunto lanciato. Di nuovo in diretta, sorrido, oggi ho anche la gola che mi fa male, ma insomma c'è un ascoltatore che dice sulla decrescita felice: lei pensi a 29 milioni di obesi nel mondo? Ho capito, ma cosa facciamo? Imponiamo agli obesi la dieta di rigore? No, ho capito che ci sono 20 milioni di obesi, 29 milioni di obesi, e questo è un problema non di decrescita, caro ascoltatore, ma di redistribuzione del reddito. Allora ragioniamo di questo, ragioniamo di modelli produttivi. Voglio dire, le imprese italiane, non tutte, le migliori, è da anni che hanno capito che non possono essere in concorrenza con la Cina, con la Thailandia, con il Vietnam, si sono spostate su altre fasce di prodotto, Dio sa quanto hanno investito su questo, e infatti i dati sull'export lo dimostrano. Chi non ce l'ha fatta, non l'ha voluto fare, ne paga le conseguenze. Dobbiamo ripensare un modello per l'intera Europa? Va bene. Vogliamo diventare la Svizzera del pianeta? Qualche banca importante, qualche grande industria di precisione forte, il turismo, il welfare, il miglior posto dove vivere, ma di tutto ragioniamo, basta che non mi citiate una decrescita felice. Tutte le volte che abbiamo visto la decrescita era tutto tranne che felice, era infelice, a meno che non sia una scelta. Filippini, cos'è la Abenomics? Abenomics, si compone appunto di tre frecce, come poeticamente dicono molte volte i giapponesi, cioè questa manovra monetaria, questa espansione enorme della quantità di moneta nel sistema, che per la verità ricopia un pochettino le politiche della Fed statunitense, i due famosi quantitative easing che hanno inondato un po' l'economia americana di dollari, riuscendo a sostenere un po' appunto l'economia stessa. La seconda freccia sono appunto investimenti pubblici, forte spesa pubblica anche per sostenere i redditi più bassi dei giapponesi, e la terza componente sono appunto queste riforme strutturali che dovrebbero rendere i settori più, diciamo così, rigidi, meno efficienti dell'economia giapponese, perché anche in Giappone ci sono molti giapponesi poco efficienti, che dovrebbero rendere appunto l'economia giapponese più elastica, più reattiva ai cambiamenti e appunto più produttiva. Sì, io ho difficoltà a immaginare anche il giapponese poco efficiente, visti diciamo i temi di questo programma, comunque immagino che ci siano anche lì. Per cui stampare moneta, quantitative easing vuol dire che tu che la banca centrale compra i titoli di Stato del governo e per farlo stampa moneta. Esatto. Poi, mi scusi, riforme strutturali, spesa pubblica, investimenti. In parte la continuazione delle spese per la ricostruzione dopo il famoso terremoto più tsunami più disastro nucleare di 2 anni fa, in parte sono nuovi investimenti in infrastrutture poi, che dovrebbero appunto rendere l'economia giapponese più produttiva anche. Ecco, e poi le riforme strutturali per mettere in concorrenza e rendere più competitivi i settori esatto. protetti. Ok, secondo lei c'è qualcuno che parla giapponese a Francoforte? No, direi che a Francoforte, per la verità a Francoforte, se pensiamo alla Banca Centrale Europea... No, Draghi lo conosce il giapponese, per quello che esatto, può fare. Esatto, cerca di essere a Berlino lo conoscono giapponese. Poco. Mm. Ecco, invece in Germania sono invece del tutto contrari, bisogna però ricordare anche un minimo di storia. No, non mi dica la cosa della Repubblica di Weimar, perché... Ha sofferto difatti quella famosissima inflazione, iperinflazione... Professore, e è una i balla. Tedeschi ne hanno ancora. Professore, è una balla storica, quella abbiamo spiegato molte volte. Hitler non arriva in Germania perché l'inflazione è alle stelle. Quando scoppia la crisi del 29, l'inflazione tedesca sta già tornando a scendere rispetto al 19 no, al no, 20. No, certo, no, siccome no, la Germania nel 29 applica un rigore estremo, no, lo dico agli ascoltatori, non a lei che magari lo sa. Quello no, applica un rigore estremo perché vuole essere virtuosa. Cosa succede? Taglia tasse, schizza la disoccupazione e il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler, che nel 28 aveva preso lo 0,8, nel 32 diventa il primo partito della Germania, perché chi ha la pancia vuota e disoccupato tende a votare gli estremi, non certo. se hai tanta inflazione. Io volevo dire solo che i tedeschi odiano l'inflazione, per cui... sopportano di più la disoccupazione, anche se per la verità in questo momento certo. l'economia tedesca è in una situazione meravigliosamente positiva, perché hanno fatto 10 anni fa le riforme del mercato del lavoro che noi non stiamo facendo da 10, 20, 30 anni. Mi dica una cosa, quant'è il debito in Giappone sul PIL? Il debito è superiore al 220%, ecco, perché l'obiezione aumenterà che viene ancora. Fatta sempre è, ma tu puoi fare aiuti di Stato, quindi infrastrutture, se hai i conti in ordine. Il Giappone ha il debito più alto del mondo, perché noi siamo i numeri 2, mi sembra, numeri 3, certo. ma il Giappone ha il 210% del PIL, nemmeno esatto. noi ci arriviamo, noi siamo al 130-140 del PIL. Siamo più virtuosi. siamo più Però virtuosi. C'è una grossa differenza tra il debito giapponese e quello italiano e di altri paesi. L'enorme differenza è che il 95% è in mano ai giapponesi. Del debito giapponese è in mano ai giapponesi. Vabbè. E questo dà un'enorme, diciamo così, fiducia al governo giapponese, vabbè, certo, in un certo, certo senso ai mercati internazionali, che non ci sarà, o meglio, sarà più difficile una crisi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vorrei capire solo una cosa dall'esempio giapponese, poi passiamo alla borsa e veniamo ai temi di casa nostra con il professor Carlo Filippini, che appunto è stato direttore del Centro Studi Economico Sociali per l'Asia Orientale e insegna economia politica alla Bocconi. Io non penso, lo dico rispondendo agli ascoltatori, che l'unica soluzione sia stampare moneta. Dico solo che in recessione l'America e il Giappone stanno facendo questo, e non stanno facendo solo questo, mettono in concorrenza con riforme strutturali i settori protetti e fanno investimenti pubblici per far ripartire l'economia. C'è una data di scadenza, perché la regola vorrebbe che tu, insomma, sostieni l'economia quando l'economia è in difficoltà, crei le condizioni, tassi bassi, facilità di recuperare e reperire liquidità, investimenti pubblici, e poi in realtà invece dai un giro di vite quando l'economia riparte e torna a crescere. Ha dato una scadenza al Giappone a questo suo piano di emergenza? Sì e no, è una scadenza che è, diciamo così, legata all'obiettivo, cioè appunto il governo vorrebbe avere un obiettivo di inflazione del 2%, e finché non verrà raggiunto questo obiettivo non intende cambiare politica. Penso che però, diciamo così, il termine di queste tre frecce sarà quando appunto l'economia giapponese ripartirà con tassi, diciamo così, intorno al 2-3%, ma che siano in previsione per molti anni, cioè negli ultimi, ripeto, 23 anni il Giappone è cresciuto e calato, tranne pochissime eccezioni, di 0,5%, 1%, qualche anno saliva, qualche anno scendeva, ma non c'è stato mai un periodo di crescita sostenuta per 3, 4, 5 anni. Questo certamente non dal 1997. Esatto, cioè, e la non crescita, faccia della decrescita felice, non ha creato tutta questa felicità in Giappone, mi sembra. Assolutamente. Quindi sono disposti a imbarcare un po' di inflazione fino al 2% stampando moneta pur di far ripartire l'economia. Posso sintetizzare in questo modo. Grazie professore. Un'ultima notizia devo leggere dagli SMS, perché attenzione, altra cosa è la neosobrietà, il non vivere sopra le proprie possibilità, come abbiamo fatto, tutto giusto, la decrescita felice, però con questo non c'entra nulla. La borsa, Milano oggi la migliore in Europa, decisamente la migliore tra l'altro, perché cresce dell'1,50% l'indice, dello 0,40% Parigi, dello 0,80% Francoforte, dello 0,60% Londra, dello 0,50% Londra e dello 0,30% l'America. Molto bene le banche oggi grazie a uno spread in calo, Banco Popolare più 8,70%, Ubibanca più 7,60%, Monte dei Paschi più 5,70%, Popolare Emilia Romagna più 5,80%, Mediolanum più 4,30%, Unicredit più 3,5%, Mediobanca più 2,70%, Popolare Milano più 2,5%. Chi perde oggi? A2A meno 3,13%, Autogrill meno 2%, Fondiere Assai meno 1,50%, Pirelli meno 1,30%, Palmlat meno 1%. I titoli bancari sono andati bene anche perché Società Generale alla Borsa di Parigi ha fatto un più 7% dopo l'annuncio del taglio dei costi della società, l'utile infatti risulta dimezzato, ma taglieranno. Crédit Agricole va bene, sempre banca francese, più 51% l'utile nei primi tre mesi dopo aver ceduto gli asset greci. HSBC, che è la più grande banca europea, ha visto l'utile quasi raddoppiare superando le stime. Invece Commerzbank ha chiuso il secondo trimestre in perdita con un rosso da 94 milioni di euro dovuto ai costi sostenuti per il personale licenziato. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Andiamo su altri titoli. Mediolanum è ai massimi dal 2008, no? Sì, esattamente. Mediolanum conferma il buon andamento dell'ultimo periodo, il titolo è salito del 4,35 a 5,4 euro, appunto ai massimi dal gennaio 2008. L'attesa per i conti del primo trimestre, che saranno diffusi il 9 maggio, vale a dire dopo domani, e dopo il bilancio record del 2012. E inoltre oggi il titolo è stato appunto proprio in vista dei conti premiato da un giudizio positivo degli analisti di Equitas IM, che consigliano di comprare le azioni, e hanno alzato il target price a 6,5 euro, quindi più di un euro per in più rispetto ad ora per azione, e quindi ovviamente tutti questi fattori hanno sostenuto le quotazioni in borsa. Ecco, bene anche Intesa San Paolo, che non ho citato più nei 70. Enel, nonostante l'utile del trimestre veda un meno 26%, e i ricavi in calo dell'1,5%, Enel ha chiuso con un più 1,60%, la notizia però è stata data a borsa già chiusa. Telecom Italia più 0,90%, A2A meno 3,13%. Sì, per quanto riguarda 2A, il titolo peggiore di oggi, ricordiamo tuttavia che però le azioni venivano da un più 60% dopo la diffusione dei conti del 2012, quindi si tratta in parte di realizzi innescati dall'avvertimento lanciato dal management sul 2013. Infatti, analizzando le prospettive del business nei prossimi mesi, i vertici della società hanno spiegato che il contesto generale economico del settore e dal punto di vista regolatorio per il 2013 saranno significativamente peggiori rispetto al 2012. Questo ovviamente ha consigliato agli investitori di passare a realizzare quanto guadagnato finora, e per questo il titolo oggi è sceso molto. È negativa anche Autogrill del 2%, ma qui insomma, ieri molto bene si era mosso il titolo. Meno 1,5 Fondiaria, meno 1,30 Pirelli, meno 0,90 Parmalat. Tra i migliori e peggiori in assoluto abbiamo Telecom Italia Media sul risparmio, più 11%, il Banco Popolare l'abbiamo detto, Alcatel-Lucent più 8,50, Beghelli più 8%, UbiBanca più 7,60 l'abbiamo detto, e appunto Société Générale più 7%, Pininfarina più 6,70, i peggiori Novare meno 8,5, Philips meno 4,5, L'Oreal meno 4,20 e appunto A2A. Per quello che riguarda Fiat, volete sapere, Paolo, il titolo dopo gli investimenti annunciati in Brasile? Fiat è salito del 2,26% dopo l'annuncio. Il settore auto, in realtà sul finale è un po' ridotto i guadagni, ma in tutta la giornata è stato sostenuto anche dalla performance di Toyota a Tokyo, la salita del 5% della società. Gli analisti prevedono utili in forte rialzo per l'esercizio 2012-2013, questo ha contribuito a sostenere le quotazioni del comparto e quindi anche quelle di Fiat. Allora, ha espresso ottimismo il presidente di Confindustria Squinzi sul fatto che il neo presidente del Consiglio Enrico Letta ce la possa fare se non gli mancherà il consenso politico delle parti che hanno formato il governo, e poi ha detto appunto: per noi è più importante tagliare tasse sul lavoro a partire dall'IRAP che non l'IMU. Se non gli mancherà il consenso politico delle parti che hanno formato questo governo, io personalmente sono ottimista che Enrico Letta possa farci. Comunque in questo momento secondo me la priorità è il lavoro, il ritrovare la crescita. E la nostra proposta di Confindustria di ridurre del 9% il costo del lavoro attraverso la neutralizzazione del costo del lavoro dal calcolo degli imponibili IRAP è un provvedimento che deve essere adottato e che comunque avrebbe come risultato complessivo quello di ridurre del 9% il costo del lavoro. Del 9% il costo del lavoro, e di questo e anche di questo vorrei parlare con il nuovo presidente da pochi minuti dell'Asso Lombarda, l'Associazione degli Imprenditori di Milano, una delle più importanti a livello nazionale, Milano, Lodi, Monza e Brianza, 5.000 imprese riunite, 300.000 dipendenti di queste imprese, Gianfelice Rocca, che è il numero uno del gruppo siderurgico Techint, di cui fa parte Tenaris, prende quindi il posto di Alberto Mammartini. Buonasera innanzitutto. Buonasera. E complimenti e auguri, come sempre facciamo in questi casi, in bocca al lupo, auguri forse non si dovrebbe dire, mi fanno notare dalla regia. Mi dica una cosa, quindi la vostra linea, che vale anche per gli industriali lombardi, è meglio tagliare il costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale, che non l'IMU? Ma certamente, avendo poche risorse disponibili e non volendo incorrere in nuovi provvedimenti europei, io credo che questa è la strada maestra, perché noi dobbiamo concentrare sul lavoro tutte le nostre energie, perché l'emorragia del lavoro è stata gravissima fino ad adesso, e quindi credo che imprenditori e lavoratori si concentrino su questo. Ecco, poi veniamo ai temi che riguardano invece la regione che lei andrà a rappresentare, come diciamo Lodi, Monza, Milano e Brianza. Però oggi Squinzi ha anche detto: io respingo l'ipotesi di una crescita di una decrescita felice. Ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione raccontando l'esempio giapponese, dove dopo 12 anni di non crescita infelice si sono messi a investire in infrastrutture, a stampare un po' di moneta e mettere in concorrenza i vari settori. Ma secondo lei esiste una decrescita felice, oppure è così una teorizzazione che non tiene conto di quello che capiterebbe con minore occupati, minore lavoro, minore potere d'acquisto, minore produzione? Io credo che sia una cosa del tutto teorica. Solo il fatto che noi abbiamo un debito al 130%, che o lo ripaghiamo con la crescita o decrescendo aumenta automaticamente di anno in anno, di giorno in giorno, e quindi inesorabilmente i mercati non lo sottoscriveranno a un certo punto, quindi è una teoria. D'altra parte la crescita felice vuol dire essere nel mondo, competere, confrontarsi con gli altri, dare posto ai giovani, fare che i giovani si combattano per il futuro e quindi è da lì che parte il futuro. Sì, io personalmente mi spiego anche a dire che la decrescita felice è un approccio teorico per metterla, per fregare i meno abbienti, nel senso che poi se uno è ricco, poi se c'è anche la decrescita felice si sposta in altri lidi, no? E chi deve lavorare tutti i giorni che con la decrescita felice secondo me rischia di non essere così felice. Poi non ho capito come avverrebbe solo in Europa. Poi mi sembra che in Europa rocca la decrescita infelice, ma la stiamo già vivendo, no? Sì, noi stiamo, diciamo che attenzione, che noi stiamo vivendo due Europe di fatto, perché c'è un'Europa del Nord che è arrivata quasi alla piena occupazione, che esporta in tutto il mondo, la Germania esporta il 40% dei suoi prodotti, per cui anche se ha dei momenti di minor crescita, però si muove in tutt'altra idea e in tutt'altro approccio. E coincido con lei che la decrescita felice è favorevole solo a chi ha dei patrimoni, ma chi invece deve seguire dei flussi si trova senza flussi, quindi mi sembra una cosa sbagliatissima. Era un po' come il 18 politico, che conveniva solo chi già un lavoro ce l'aveva dopo la laurea, diciamo. Vabbè, non voglio tornare su vecchi temi. Andiamo avanti invece con il mondo dell'impresa e quello che le rappresenta, lo dico senza nessuna mancanza di rispetto per altri settori, aree produttive di questo paese, uno di quelli che più si confronta con l'Europa. Secondo lei in questo momento, oltre a una riduzione della pressione fiscale sulla busta paga, cioè che vada a vantaggio dei lavoratori, visto che voi siete un gruppo molto internazionalizzato, quali dovrebbero essere altre misure necessarie? Cioè, tanto siamo tutti nella stessa barca, andare a contrattare con Bruxelles anche misure per la crescita? Dunque sicuramente bisogna contrattare con Bruxelles in una fase così congiunturale certi alleggerimenti, che però Bruxelles può concedere solo in presenza di un chiaro spirito di riforme da parte dell'Italia, perché concedere semplicemente, ma anche a noi stessi, in aumento del debito significa trasferire sulle nuove generazioni un debito crescente senza spiegarci a noi e a loro in che modo intendiamo ripagarlo. Quindi dobbiamo badare anche quando andiamo in Europa, soprattutto a noi stessi. Ecco, su questo quindi nessuno vuole aumentare il debito, ma dice sostanzialmente trovare altre formule per far ripartire la crescita, se ho ben capito. Dal punto di vista della Techint, per un secondo la interpello come presidente, come numero uno della Techint, voi dove vedete le dinamiche più interessanti quanto a mercati? Ma noi dobbiamo tener conto che il mondo nell'arco degli ultimi 10 anni è raddoppiato, quindi è chiarissimo che il mondo è una lavagna su cui noi e l'Italia e le imprese possono scrivere la loro storia. Ovviamente l'Asia continua, anche se la Cina in questo momento ha relativamente rallentato la sua crescita, ma cresce più nei consumi che negli investimenti, e questo offre all'Italia, al settore del lusso, a molti settori, al design, offre delle prospettive. E poi ci sono i paesi basati maggiormente sulle commodities che crescono, c'è tutta la zona sud degli Stati Uniti, nord del Messico, che è in fase di una notevole crescita. Quindi il mondo è a macchie di leopardo, ma ci sono la gran parte delle macchie del mondo che è in crescita. Su questo, visto che adesso da oggi lei assume anche il ruolo di rappresentante degli industriali, degli imprenditori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che non dico autocritica, insomma, ma che invito, perché ognuno deve fare la sua parte, no? Lo diciamo spesso, ecco, che invito farà ai suoi associati per quello che riguarda i compiti che voi dovete fare a casa? I compiti a casa sono grandissimi, sono compiti di aumentare l'innovazione, quindi aprirsi all'innovazione, di utilizzare un capitale umano maggiormente, pensare di costruire aziende che abbiano, vogliono competere nel mondo e rimanere e sopravvivere ai propri imprenditori. Quindi è un insieme di fattori di pensare in grande, diciamo, che noi abbiamo troppo privilegiato l'idea che pensare in piccolo ci offre una soluzione. Lo può offrire in certi momenti, ma nel lungo periodo non offre soluzioni, non offre continuità, non offre continuità ai nostri collaboratori, non offre continuità ai nostri figli. Quindi ci sono molti lavori e compiti a casa. Io credo che il compito di Assolombarda sia di eccitare il miglioramento di noi stessi e non di immaginarci semplicemente di essere un governo ombra del paese. E quanto alla formazione, perché insomma, questi, per non avere una generazione perduta, noi dobbiamo creare politiche di crescita che facciano ripartire, anche se l'anno prossimo, ce l'ha detto l'Istat ieri, la disoccupazione continuerà a aumentare, anche se il PIL ripartirà, ma sappiamo che il fenomeno è a scoppio ritardato, riparte l'economia e un po' dopo riparte anche l'occupazione. Ma sulla formazione, visto che lei è stato vicepresidente di Confindustria con la delega proprio all'educazione, non ci dovrebbe essere, al di là di molta retorica come sul turismo e altre cose, qualche intervento un po' più massiccio, Rocca? Ma assolutamente, cioè noi dobbiamo aumentare di gran lunga la capacità delle scuole, degli istituti di autogovernarsi, cioè di decidere più il proprio destino, in particolare delle grandi università e in particolare delle grandi università che risiedono a Milano. Queste sono università che stanno competendo in Europa. Noi, il Politecnico di Milano è una delle università che laurea i migliori ingegneri quinquennali a livello europeo, e questo è riconosciuto. Tutto in inglese, tra l'altro, se non ricordo. Tutto in inglese ed è riconosciuto dai reclutatori di tutte le grandi multinazionali ai primi, secondi, terzi posti in ingegneria meccanica e ingegneria chimica. Quindi noi dobbiamo rafforzare un sistema esistente, ma che ha la possibilità di giocarsi la sua partita sicuramente a livello europeo. Non partiamo da zero. Per inciso, poi la saluto, la vostra battaglia sugli istituti tecnici che fine ha fatto? Nel senso, perché me la sono persa di vista, colpa mia, ma insomma si è ottenuto qualcosa? Perché avere smantellato quelle che erano le nostre scuole di formazione di una volta, che preparavano figure che servono poi alle imprese, ha creato, come voi spesso avete ricordato, grossi danni. Si è mosso qualcosa su quel fronte, Rocca? Assolutamente, noi abbiamo fatto una battaglia per ridare la dignità agli istituti tecnici, e le iscrizioni agli istituti tecnici stanno aumentando rispetto a quelle dei licei, quindi si è invertita quella tendenza che avevamo trovato quando ci siamo occupati di questo. Adesso si tratta di migliorare l'insegnamento tecnico, di renderlo più aderente ai bisogni del mercato. Questa è la battaglia dell'implementazione, e su questo direi il lavoro in corso. Speriamo di avere anche dati analoghi sull'iscrizione a scienza della comunicazione, perché è un mio vecchio cavallo di battaglia, non ce l'ho con i laureati in scienza della comunicazione, ma dovete anche capire che cosa vuol dire poi la decrescita felice. Grazie e in bocca al lupo a Gianfrice Rocca. Grazie e saluti a voi. Nuovo presidente di Asso Lombarda. Allora basta, inviteremo qualche teorico, l'abbiamo già fatto, della decrescita felice. Io dico solo, vi lascio con questa riflessione: noi siamo in decrescita, in recessione nel sud Europa, nel nord Europa sono in ampia crescita. Uno può fare un test e cercare di capire chi in questo momento è più felice. Il tema della sobrietà, del non sprecare, del vivere sulla base delle proprie disponibilità non c'entra niente con un tema in cui dovremmo tutti lavorare, produrre meno e avere meno potere d'acquisto. Noi ci risentiamo comunque domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.